Parte seconda. Nakun. Capitolo 12. Erano i primi giorni di primavera del 1908. La stessa primavera che a Mosca ancora vestiva di ghiaccio le strade, Lea Capri metteva voglia di sbottonarsi la camicia e annusare la brezza del mare. Sulla banchina di Marina Grande, l'andirivieni di carretti, facchini e locandieri s'accendeva in attesa del battello da Napoli, unico momento di trambusto della giornata. Per il resto, l'insenatura viveva al ritmo dei pescatori, che uscivano all'alba in cerca di corallo e di notte con le lampade per attirare i totani. Bogdanov si fece largo nella piccola folla e raggiunse il pontile. Si trovava sull'isola da una settimana, ospite di Gorky, al secondo piano di Villa Blesus. Dimora da signori, con 5 camere da letto, cuoco e servitù. Al clima insolito si era abituato in fretta, ma quando usciva in terrazza per la colazione e ammirava la vista sui faraglioni bianchi, ancora si stupiva che quella terra minuscola, ritiro di aristocratici e di bel mondo, fosse diventata un crocevia di rivoluzionari e di spie. Le autorità italiane si limitavano a controllare i movimenti degli esuli russi e i loro incontri coi socialisti locali. Impresa semplice su un'isoletta. Premeva giusto non danneggiare il turismo e, quanto a questo, la presenza di uno scrittore famoso era l'attrattiva in più. I giornali d'Europa pubblicavano interviste e resoconti. I ricchi industriali del continente si eccitavano all'idea di visitare la tortuga dei ribelli. Bogdanov non ci mise molto a individuare i 3 uomini che aspettava, tra dame dell'alta società e giovani in maniche di camicia. In testa e in coda c'erano i gemelli, 2 compagni armeni che tutti chiamavano così, perché simili nell'aspetto e abituati a girare in coppia. Pochi sapevano che in realtà non erano nemmeno parenti. Ad accomunarli gli stessi gusti in fatto di barba, baffi, acconciatura vaporosa e nodo alla cravatta. Nei modi erano invece agli antipodi, il che li rendeva molto adatti per alcune missioni. In mezzo ai gemelli riconobbe Leonid, il viso più giovane di come lo ricordava, nonostante il trauma e la barba lunga. Bogdanov andò loro incontro. I saluti furono formali. Sulla funicolare, che si arrampicava dal porto alla piazzetta, i 4 rimasero zitti. Un signore, allegro e ben vestito, rivolse loro qualche domanda in italiano. «Da dove venite? Quanto vi trattenete? È la prima volta che...» Bogdanov si rammaricò di non parlare la lingua. Attaccare bottone con uno sconosciuto sarebbe stato un buon diversivo. Giunti all'albergo, i gemelli consegnarono le valigie all'usciere e, senza nemmeno ritirarsi in camera, chiesero a Bogdanov di riferire alcune informazioni confidenziali. Lui propose di seguirlo a casa di Gorky e, con sua grande sorpresa, i 2 si separarono. Il gemello con le orecchie a sventola, che si chiamava Arad, avanzò dietro di lui. L'altro, invece, raggiunse Leonid sulle scale. L'ingresso a Villa Blesus strappò al nuovo arrivato un commento sbalordito, a dispetto della sua fama di essere il duro della coppia. Bogdanov lo invitò ad accomodarsi su una sedia imbottita, ma il gemello rimase in piedi e sfilò una busta dalla tasca interna della giacca. «Da parte del compagno Krasin», esordì. Bogdanov lesse con calma. Krasin lo informava che Leonid Volok era ricomparso a Baku dopo 7 mesi che non dava notizia di sé. Sosteneva di essere fuggito da piazza Erivan in preda a un trauma da esplosione. Alla stazione diceva di aver preso un treno insieme a Koba, ma di essere saltato giù e di essersi perso tra le montagne. Trovato rifugio in casa di una donna, era rimasto con lei per tutto il tempo, finché non si era risolto a raggiungere Baku. Koba aveva rintracciato la donna, una giovane circassa di 25 anni, rimasta vedova da poco. La sua versione dei fatti coincideva con quella di Leonid, se non fosse che giurava di averlo ospitato solo per un paio di settimane. Secondo Koba, la donna non voleva ammettere di aver tenuto in casa un estraneo per diversi mesi. Altri erano convinti che Volok nascondesse un segreto. Gli amici dicevano che il suo comportamento insolito avvalorava l'ipotesi del trauma dovuto alla bomba. Gli scettici erano persuasi che si fingesse pazzo, come aveva fatto Camus per scampare alla galera. Il timore era che l'Ocrana lo avesse catturato e costretto a confessare i dettagli della rapina, per poi rispedirlo in mezzo ai bolscevichi come spia. Krasin gli chiedeva di esaminare il soggetto e di appurare la verità. «Perché io?» chiese Bogdanov. Arad rispose contando sulle dita. «Perché siete un membro del centro bolscevico, perché siete un medico specializzato in malattie mentali, perché lo stesso Volok ha chiesto di essere messo a confronto con voi». Bogdanov trovò equo quel contrappasso. Era corresponsabile di quanto era capitato a Volok. Tuttavia, temeva ciò che avrebbe potuto scoprire. Un buon bolscevico conosce il proprio dovere, e Krasin glielo ricordava nella lettera. «Quando intendete incontrarlo?» domandò l'armeno. «Il prima possibile», rispose Bogdanov. Presero appuntamento per le 7 del mattino dopo. Rimasto solo, Bogdanov rilesse da capo la lettera di Krasin. Se avesse scoperto che quella di Volok era una pantomima, non avrebbe avuto scelta. In quanto membro del centro bolscevico e del comitato centrale, in presenza di una minaccia di infiltrazione, avrebbe dovuto sventarla seduta stante. Dopo quanto era capitato a Camus a Berlino, non c'era da fidarsi di nessuno. Per un attimo gli balenò l'idea di rifiutare l'incarico. Sarebbe stato giusto demandare ad altri la decisione? A qualcuno comunque sarebbe spettata, e una sentenza collegiale avrebbe alleviato il senso di responsabilità, non certo la responsabilità stessa. L'aspetto grottesco della situazione era che la sua agenda prevedeva impegni diversi. Ora, di fronte al destino di un uomo, parevano sciocchezze. Sul tavolino, sotto la finestra, lo attendeva un articolo di Gorky. Si intitolava «La distruzione della personalità». Lo scrittore ci lavorava da mesi. Per tutto l'inverno aveva afflitto Bogdanov e Lunacharsky e Bazarov e chissà quanti ancora, con mille richieste di consigli. A un certo punto era intervenuta perfino Maria Andreeva, pregandolo di non affibbiare più al marito articoli filosofici che lo distraevano dal suo vero mestiere, quello di scrivere romanzi. Il pezzo sarebbe dovuto uscire sul Proletari, ma Lenin non lo aveva digerito. In un'estenuante riunione di redazione aveva sostenuto che pubblicarlo avrebbe violato la neutralità filosofica del giornale, infarcito com'era delle empirio scemenze che tanto piacevano alla setta dei costruttori di Dio. Bogdanov si era opposto. La neutralità non significava evitare il confronto tra idee diverse, ma al contrario discuterle sulle pagine del giornale perché non andassero contro gli insegnamenti di Marx. Qualcuno aveva fatto notare che il Proletari raggiungeva la Russia grazie agli agganci di Gorky. Non era il caso di rifiutargli un articolo. Niente da fare. Per fortuna lo scrittore non se n'era avuto troppo a male. «Vorrà dire che lo proporrò a Znanie», aveva dichiarato, per poi buttarsi a perfezionare il testo con l'ennesima riscrittura. Una fatica che avrebbe potuto risparmiarsi, visto che il direttore della casa editrice era lui medesimo. Il risultato era che l'articolo giaceva ancora in forme e Bogdanov si era fatto strappare la promessa di dargli l'ultima sistemata. Operazione difficile, perché bisognava tagliare e cucire a tutto spiano, senza ferire l'orgoglio dell'autore, le cui tirate più altisonanti risultavano indigeste anche a lui. Un conto era dire che l'uomo ha un insopprimibile bisogno di spiritualità. Su questo poteva essere d'accordo e ovviamente era d'accordo nel denunciare come un inganno le favole sugli dèi e gli esseri sovrannaturali. Ma a sostenere che al loro posto si doveva mettere la società futura, la comunità universale, per fondare una religione laica, era davvero un boccone che non gli andava giù. Ci avevano già provato i giacobini e il risultato era stato disastroso. «Non una religione», diceva Gorky, «niente preti né papi, ma la fede dell'uomo nell'umanità». «L'individuo», gli rispondeva Bogdanov, «deve essere parte della collettività. Se la mette su un altare, se ne sta già alienando». Più lo frequentava e più si rendeva conto che il limite di Gorky non era la scarsa attitudine per la filosofia. Il suo vero problema era non saper decidere tra due innamoramenti. Da un lato se stesso, dall'altro la società. Quando la voce interiore gli sussurrava io, subito si sentiva colpevole per non aver pensato noi. Allora, per dimostrarsi all'altezza del suo ruolo intellettuale, scriveva un peana per l'umanità, l'unico vero Dio che bisognava costruire e adorare insieme, sciogliendo le identità in un'anima cosmica. Il giorno seguente, però, l'idea di una simile fusione lo preoccupava, perché lo avrebbe privato dell'ammirazione altrui e quindi si buttava in cerca di adulatori e trionfi personali, fino a che il senso di colpa non lo spronava a una più radicale condanna dell'individuo. Alto sul piedistallo gridava «Noi» con tutto il fiato, ma il suo era soltanto un plurale maiestatis. Anche l'infittirsi della loro corrispondenza aveva diminuito la stima di Bogdanov per Gorky. Come si può disquisire intorno alla distruzione della personalità mentre si stordisce l'interlocutore con una sinfonia di sviolinate? «La vostra intelligenza è una delle cose più preziose del nostro tempo», gli scriveva Gorky. «I vostri libri sono immensi, la vostra filosofia è superiore a quella di Kant, gli operai russi diventeranno tutti empiriomonisti. È quel che mi dice il mio intuito», gongolava, «che ho l'ardire di giudicare infallibile». Anche se dal loro scambio si intuiva che aveva letto, sì o no, 3 pagine dei 3 volumi di empiriomonismo, tuttavia lo citava di continuo, al punto che si era messo d'impegno perché il suo pappagallo imparasse a pronunciare quella parola. «Avanti, Pepito, ripeti con papà, empiriomonismo, empiriomonismo». Alla lunga, il bersaglio di tanti complimenti aveva finito per non poterne più. Gorky gli ripeteva di raggiungerlo in Italia per dedicarsi alla filosofia. Lo invitava a non perdere tempo dietro alle bagatelle di partito e litigi dall'alto in basso con gente meschina. Ma la maggior perdita di tempo era dover rispondere alle sue lettere. Bogdanov ci si metteva di malavoglia, sapendo che l'appoggio di uno scrittore tanto popolare era prezioso. Tuttavia, se alla fine era sceso da Ginevra a Capri, non era soltanto per convenienza, e nemmeno per cucinare l'articolo di Gorky, che avrebbe rovinato la digestione a Lenin. Quel che davvero lo interessava era l'idea di fondare una scuola per operai russi. Nella battaglia contro se stesso, Gorky aveva compreso che l'individualismo è troppo radicato nella cultura borghese. Gli operai, invece, grazie all'esperienza della fabbrica, sono più predisposti al collettivismo. Prima però devono studiare, poi elaborare una nuova cultura, quindi adoperarsi per diffonderla, così che diventi patrimonio di tutti. La scuola sarebbe stata il loro trampolino. Capri, la loro cittadella universitaria. Gorky avrebbe trovato la sede adatta, e i soldi di Tiflis l'avrebbero finanziata. L'unico ostacolo, ancora una volta, si chiamava Lenin. Gorky gli aveva esposto l'idea con il solito entusiasmo. Lenin l'aveva stroncata, dicendo che il partito era una scuola più che sufficiente e chi ne proponeva un'altra voleva in realtà un altro partito. Risposta prevedibile da parte sua, ma Gorky c'era rimasto male. Ci teneva alla sua approvazione. Bogdanov allora era sceso a Capri per rassicurarlo. Spesso il consenso si ottiene meglio con l'azione che con il dibattito. Dovevano metterla in piedi, la scuola per operai, se volevano convincere Lenin della sua utilità. E dovevano finirlo, quel dannato articolo, se volevano pubblicarlo e farglielo andare di traverso. Bogdanov sedette alla scrivania, accese il lume e si mise al lavoro. Il mattino seguente, quando scese le scale di Villa Blesus, Bogdanov trovò Leonide e i suoi angeli custodi che lo attendevano nell'atrio. I due armeni si alzarono di scatto e lo salutarono. «Andiamo alla marina», disse Bogdanov e aggiunse, «da soli». I gemelli gli affidarono il compagno Volokh e si ritirarono in buon ordine. La giornata era limpida, il sole ancora giovane e la linea dell'orizzonte tra cielo e mare pareva lasciare all'acqua più spazio del solito. Quasi dovesse tracimare e annegare il mondo. Volokh e Bogdanov imboccarono via Krupp, la strada voluta dal re dell'acciaio, per saltare più in fretta a bordo del suo panfilo, ormeggiato nella rada di Marina Piccola. I tornanti incidevano la roccia con curve tanto strette che a vederli dall'alto si sovrapponevano. Bogdanov raccontò che il magnate non era riuscito a godersi la sua strada. Poco dopo l'inaugurazione, un giornale napoletano lo aveva accusato di traviare i ragazzini dell'isola e di aver trasformato Capri nella nuova Sodoma. Espulso dall'Italia, Krupp era morto qualche mese più tardi, quando anche i socialisti tedeschi lo avevano accusato di essere un pederasta e un omosessuale. «Strano modo di fare la lotta di classe», commentò Volokh, «nelle mutande dei padroni. e fu l'unica frase che pronunciò per tutto il tragitto. In fondo alla strada, sulla spiaggia, Bogdanov rintracciò un pescatore che già spesso aveva trasportato lui e Gorky su una barca a remi. L'uomo non ci mise molto a capire quel che lo straniero gli spiegava a gesti. Voleva prendere il piccolo gozzo insieme all'amico e, per sapere quanto gli sarebbe costato, strofinava il pollice sull'indice. L'accordo venne concluso in fretta. Salirono a bordo e Volokh si offrì di mettersi ai remi. Bogdanov accettò. 10 minuti più tardi, la barca era a 300 metri dalla costa e l'orizzonte si allargava dagli scogli bianchi più vicini fino a Punta Licosa, il capo meridionale del Golfo di Salerno. Bogdanov disse a Volokh di smettere di vogare. L'altro si asciugò la fronte col dorso della mano. Il mare era appena increspato da un vento leggero. Decisero di non gettare l'ancora per lasciare che la corrente li spingesse verso est. Non avrebbero fatto molta strada, cullati dall'ondeggiare lieve. «Sai perché siamo qui», esordì Bogdanov. L'istinto gli aveva dato del tu, come se fossero nella cella dove si erano conosciuti. Non si scorda l'intimità sudicia di una gattabuia, nemmeno davanti allo spettacolo della costiera amalfitana. «Per scoprire se sono un pazzo o un traditore», disse Volokh con un ghigno. Bogdanov notò che non portava più al dito l'anello ricavato dal bullone. «Perché hai chiesto di incontrarmi?» chiese. Volokh fissò il profilo sfumato di Punta Licosa, respirando a pieni polmoni. «Appena ascolti la mia storia, lo capisci», rispose. «Allora raccontami tutto», lo incalzò Bogdanov. «Per raccontarti tutto non basta una settimana», attaccò Volokh. «Perché il mio non è un vuoto di memoria, è un pieno. Io ricordo, ma è un ricordo così strano che non posso crederci. Allucinazioni, mi dico, per lo scoppio della bomba vicino alla mia testa». Si batté le nocche sulla tempia. «In guerra mi era già capitato». Tornò a guardare lontano, un volo di gabbiani o il porticciolo che biancheggiava contro la massa scura dell'isola. «A Tiflis era proprio come in guerra, ma sapevo che non era così, perché il mondo era uguale a prima. Invece dopo, quando sono saltato giù dal treno, insieme a Koba...» «Koba non era su quel treno», lo interruppe Bogdanov, che aveva letto per la terza volta la lettera di Krasin mentre faceva colazione. «È arrivato a Baku da solo, il giorno dopo». «È quello che ha detto anche a me, quando l'ho rivisto», annuì Leonid, sfilandosi la giacca. Iniziava a fare caldo. «Ma nella mia allucinazione siamo saltati giù e siamo entrati dentro una palla di vetro che era lì ad aspettarci. La palla si è messa a volare. Allora Koba si è tolto la maschera e sotto c'era un essere che pareva un uomo, ma di sicuro non lo era. E siamo volati su un altro pianeta». Bogdanov rimase in ascolto. Krasin, nella lettera, accennava ai deliri di Volokh, ma non gli aveva parlato di viaggi spaziali. «Il pianeta si chiamava Nakun», riprese Leonid. «Ci sono rimasto finché non mi hanno riportato sulla Terra. Mi hanno lasciato in un bosco, sulle stesse montagne dove mi avevano preso. L'ho attraversato, sono arrivato a una casa. Mi ha accolto una donna, mi ha dato da mangiare e mi ha offerto da dormire. Al risveglio non mi sentivo bene. Avevo nausea, brividi, vertigini. Sono rimasto a letto per molti giorni e quando finalmente mi sono rimesso in piedi ho pensato che Nakun era un lungo sogno. Mi sono convinto di essere arrivato lì da Tiflis dopo aver abbandonato il treno per Baku. Non so, forse ho vagato qualche giorno per le montagne, forse sono stato in altre case. Non è che non ricordo, io ricordo tutto, anche nei particolari, solo che...» Leonid allarga le braccia. «Ero su Nakun». Invece di immaginare un pianeta lontano, Bogdanov rivide il cancello dell'ospedale psichiatrico di Kuvjinovo. Erano passati soltanto 5 anni dall'ultima volta che lo aveva varcato. Dentro quelle mura aveva incontrato bugiardi compulsivi, schizofrenici, mitomani e millantatori. C'era chi credeva alle proprie menzogne, chi le diceva per il gusto di ingannare e chi si sforzava di non mentire, salvo poi lasciarsi trascinare dalla forza delle proprie illusioni. Leonid poteva appartenere a quest'ultima categoria. Quando nominava il suo pianeta inesistente, riferiva un'esperienza reale. Poi però si correggeva, parlava di allucinazioni, cercava di distinguere tra le sue sensazioni e la realtà oggettiva. Un traditore si sarebbe coperto con una bugia più semplice, per poi difenderla come l'unica verità. Quella storia era troppo strampalata e fantasiosa per essere una copertura. Oppure, proprio perché suggeriva quel pensiero, era la copertura perfetta. Krasin non mi ha scritto nulla del tuo viaggio immaginario. Perché non l'ho detto a nessuno, ribatté Volok. Tu sei il primo. Non hai pensato che la reticenza avrebbe aggravato i sospetti sul tuo conto? Domandò Bogdanov. Certo, ma tu sei l'unico che può capire davvero. Capire cosa? Nakun è un pianeta socialista, riprese Volok. Non ci sono padroni, non c'è proprietà privata. Il benessere comune è l'unica ricchezza. Prima anche lassù hanno avuto re, feudatari e capitalisti. Poi a loro è riuscito quel che noi russi abbiamo tentato 3 anni fa. Un partito dei lavoratori che prende il potere, gli operai che dirigono le fabbriche. Ma lassù, la rivoluzione, l'hanno fatta col sapere. Leonid fece una pausa e chiese a Bogdanov di passargli la borraccia. Riempì un paio di volte il tappo a mo' di bicchiere e bevve 2 generose sorsate. I nakuniani non hanno tante scienze come noi. Le avevano un tempo, ma le capivano solo gli specialisti. Tutti gli altri dovevano limitarsi a credere. Allora si sono messi d'impegno per trovare una super scienza che le comprendesse tutte e permettesse ai lavoratori di conoscere da sé. E sai cosa hanno scoperto? Che la legge universale è l'organizzazione, come scrivi nei tuoi libri. Io ci ho provato a leggerli, ma sono troppo difficili. Invece lì, su Nakun, è chiarissimo. Le fabbriche, le biblioteche, gli ospedali, i parchi pubblici funzionano con gli stessi principi. La superscienza applicata in campi diversi. Ancora non capisco, obiettò Bogdanov. Perché non hai raccontato queste cose ai compagni? Perché soltanto a me? Perché tu sai cosa ho visto, disse Volok. Ho visto le tue idee realizzate. Questa volta la pausa fu lunga, colmata solo dallo sciabordio dell'acqua e dal guizzo di un pesce. Conosci le 1001 notte? Chiese infine Bogdanov, ma non attese risposta. C'è una donna, Shahrazad, che ogni sera racconta una storia al suo signore per ritardare la propria esecuzione. Volok annuì serio. Se non convinco te, non convinco nessuno. Non te ne faccio una colpa, compagno. Per questo ho remato io. Perché tu non ti affaticassi, nel caso dovessi tornare indietro da solo. Bogdanov percepiva la durezza del revolver nella tasca della giacca. Volok non aveva l'aria di uno che fa opposizione. Pareva davvero rassegnato al proprio destino. La vita del singolo non conta poi tanto, disse Volok con grande calma. Lo sappiamo tutti e due. Dopo un istante, allargando lo sguardo sul panorama, aggiunse: abbiamo visto posti peggiori di questo. Bogdanov immaginò di estrarre la rivoltella e sparargli al cuore. Poi avrebbe legato l'ancora al cadavere, l'avrebbe rovesciato in mare e dietro al corpo avrebbe gettato la pistola. Chi si sarebbe meravigliato di sentire che Volok il matto si era tuffato fuori bordo, abbracciato all'ancora? Non certo la polizia italiana. Krasin avrebbe capito senza bisogno di parole. Le storie di Leonid Volok sarebbero andate perdute per sempre in fondo al golfo. Il suo viaggio sul pianeta socialista sarebbe morto con lui. Un viaggio politico, un racconto filosofico, l'empirio monismo tradotto in parabole. Un romanzo di scienza e di fantasia che nessuno avrebbe mai letto, perduto ai pesci. Bogdanov pensò all'assurdità della situazione, a Volok che attendeva la sentenza. Poi afferrò i remi che pencolavano sugli scalmi. «Direi piuttosto che non abbiamo mai visto un posto più bello», disse. Quindi prese a remare verso il porticciolo.